Ora, attenzione 10. Ora, CQ 10. CQ canale 10. CQ canale 10. Ciao Roberto. Meno male ha risposto qualcuno. Te vediamo un po' se c'è qualcuno. Perché qualcuno ce lamentava, dice chiama, non c'è mai nessuno. Adesso ho chiamato io, riesci a vedere. Ciao Marco. Ciao Roberto, io ero nella camera del computer, ero attaccato al computer, ho sentito qualcosina perché qua il volume lo tengo basso. Oggi vabbè, non sono entrato né niente, ho fatto un po' di commissioni, poi ho saltato la notte tutto il pomeriggio e ero in orbita, ero girato dall'altra parte del letto e poi vabbè, e quindi non ti so dire niente, non ho sentito nessuno, il poco che era acceso qua, ho sentito la tua chiamata e boh. Vabbè, almeno qualcuno ha risposto, dai, ho fatto la prova, ho detto se qualcuno è sveglio, perché magari qualcuno sta già riposando. Cosa volevo dire? Quindi in Senato non hai sentito nessuno e si sta spopolando questa roba. Sai cos'è roba? Aggiornate, tu aggiornate puoi trovare 3, 4 o anche 5 persone, così, Raptus, e il più delle volte magari meno gente o niente. E lì attività, vabbè, attività adesso voi ne fate un bel, anche chissà, digitale, roba che non sentiamo orecchio. Poi io non ho antenne più esterne per ricevere VU e quindi sono castrato. L'altro giorno, guarda, per grazia di Dio, giusto per caricare la batteria, ho rimesso in funzione quel ricevitorino famoso, come ce l'avevi tu, quello XH data, come ti si chiama, giusto per caricare le due batterie, quei piloni lunghi, no, le 18650, le devo caricare bene, cioè scaricare bene e ricaricare bene perché erano ferme da un po', sennò ce le butti con le batterie. Se arrivano a 0 volt le butti come tutte quelle al litio. Lo so che è tanto. Tenerle attive, operative, perché sennò poi in ciclo di carica non riesci a riprenderlo. Cosa stavo dicendo? L'altro giorno, già da un po' si stava parlando qua parliamo dei radioamatori, volevano attivare il canale 15, infatti abbiamo fatto anche delle prove l'altro giorno, qualcuno è favorevole, anche io sono favorevolissimo, qualche donato era un po' così titubante, dice siamo già pochi nel canale monitor nostro, figurati, no, ma io dico che la radio è bella perché varia, come si suol dire, ci sono un sacco di possibilità, la 27 io non la rinegherò mai, sono nato nella 27, per cui ogni tanto accendo, faccio qualche cosa in ascolto, vedo un po', per cui ebbene, ne era sempre viva. Mi dispiacerebbe se poi alla fine non ci andasse più nessuno a parlare. Una domanda, sono un po' più lontano del solito dal microfono. Come mi ascolti? Io ottimamente, Robè, niente da rilevare. No, dico come intensità microfonica, è bassa la modulazione, perché sono da molto che io non lo utilizzo questa radio, me l'altro giorno con voi, però non l'ho più regolato, non ho fatto più niente. No, eccellente Robè, eccellente, niente da dire. Se non me l'avessi detto non me ne sarei neanche accorto. Scappa. Ok, segnale, come parliamo, tu stai arrivando a Bomboletta, sei quasi 9 più 40 con questa radio, per cui siamo abbastanza vicini. Che antenna mi hai detto che tieni tu ultimamente? Io ho sempre la 5 ottavi della Midland New Energy, alias Sirio GPE mi pare, o GPS, una cosa del genere. Praticamente è una BA27L, siamo lì, quella con tre radiali, quelle distanziate a 120 gradi. Qui è un'antenna 5 ottavi, grandicella, quindi sono circa 7 metri di antenna, cioè. Sì, non è nemmeno 7 metri, è un po' più, c'ha appena più di bobina, mi pare sia 6 metri. 6 metri spiccioli, ma fai 6 metri dai, non sono 7 metri come le Mantova, e qua c'hai appena appena più di bobina e appena appena meno di stilo, però già è alta, altro che, cioè, non è una bazooka, no. Ah, forse ho sentito qualcuno che stava parlando sotto, avanti, che vuole entrare qua su 10? Forse è proprio ragazzone S9, c'è qualcuno che parla, però è un po' disturbato, no, quindi l'antenna mi ricordava, ma sempre quella, ha avuto, ne ha avuto altre, quando qualche anno fa. Allora, L'anno prima di montare questa avevo messo una come si chiama? Una Ringo della Lemme, che praticamente dopo un anno, a parte che si era mezza smontata, si era proprio staccato lo stilo da quell'anello di plastica che fa da isolatore, di elettrico, non so come lo chiamino, comunque è calcolato come valore. E aveva gravi problemi di infiltrazione di acqua, nonostante l'agglomerante, guarda, è passato un millimetro di fascetta giunto tra gli stili scoperto, cioè abbiamo trovato di tutto, mucillagine di alluminio, come faccio il fondo delle caffettiere quando te le dimentichi, e anche ruggine della fascetta inox, la fascetta inox che ha fatto tombe di ruggine, e quindi dopo un anno l'ho tolta subito, non arrivavo a Polo Torres, cioè Sandro di Polo Torres con la Ringo, col palo più alto non mi sentiva. E come ho cambiato? Ho accorciato appena il palo e ho messo la Energy, una normale 5 ottavi, arrivavo a Sandro di Polo Torres e ho detto tutto. Proprio lavora male quella ringolina, a parte che è ultra corta, cioè una mezz'onda lunga 4 metri e mezzo, hanno modificato un progetto che di per sé è validissimo, quello della Ringo, è semplicissimo, niente, hanno modificato tutto, allargato bobina, accorciato stilo, ed era anche una dannazione da tarare, mi ricordo, perché non avevi né tacche di riferimento sullo stilo, non avevo i segni sulla bobina dove mettere il morsetto, insomma un pasticcio. Ora ho guardato i forum e tutti si erano lamentati di quella Ringo della Lem, che non è più quella originale, poi quella dell'Eco Antenna era buona, la Ringo dell'Eco Antenna era fatta secondo i parametri giusti, e poi hanno fatto schifezze, adesso ci sono anche queste Venom a mezz'onda, e ti dirò che comunque funziona meglio la Venom a mezz'onda che non la Ringo, l'ultima Ringo della Lem, che non va comprata, infatti Fusaro la vendeva tipo 37-39 euro, ma non valeva neanche quelli. Non lo so, diciamo, io ho dal 2005 montata la Mantova 1, ho di scorta una Mantova Turbo, quella non so se tu ricordi di Salvatore Maestrale, quello di ottava l'avevo montata poco, poi l'ha smontata, è partito e me l'ha regalata a me insieme al palo e tutto, vabbè il palo l'ho utilizzato per altre cose, qualche pezzo l'ho regalata, poi nuova la Turbo, ce l'ho sempre di scorta, non si sa mai, tra l'altro se la accorci un pochettino la sistemi, la puoi utilizzare anche per le bande di 10 metri, io la utilizzo la Mantova anche in corso, in 20 metri ti posso dire si fa ascoltare, in 15 metri, ho provato da tante parti, con l'accordatore funziona perfettamente, molto meglio di altre antenne filari di dipoli che ho visto che in certe situazioni sono un po' critiche, io con muto le antenne vedo quella che va meglio, magari ascolto con una che è meno rumorosa e trasmetto con l'altra che è più performante, o viceversa, dipende dalle situazioni, però devo dire della Mantova io sono pienamente soddisfatto, non l'ho mai fatto, da quando l'ho montata nel 2005 nessuna operazione di cover, anzi per essere più preciso appena montata ed immediatamente avevo fatto forse un po' di danno, avevo dovuto sostituire la bobina, l'ho rifatta nuova completamente, l'ho riavvolta utilizzando lo stesso tipo di cavo, di spessore, numero di spire e gli ho messo un PL serio della Amphenol saldato, non con le cagate che mettono loro pur rivettato che ne c'è al primo tiro, fatto bene e ti posso dire sta sempre andando, mai avuto problemi di stazionaria da quando ce l'ho con l'antenna. È un peccato anche che comunque le Mantova non le facciamo più, per quanto nell'ultimo periodo ha perso molto, sono aumentati dei materiali un po' risicati, certe cose non erano più di alta qualità come prima, nell'ultima è Mantova Turbo tipo. Poi avevo saputo dopo tanto tempo, penso io non l'avevo mai vista né toccata con mano una Mantova, non sapevo nemmeno che quella stellina che c'era in punta era di plastica, io credevo fosse di metallo che servisse tipo, che ne so, allungare tipo cappello capacitivo, cosa ne so, non sapevo cosa servisse, e poi ho visto che era una stellina di plastica messa in punta così per... Quando stai parlando io sento qualcuno che vuole entrare, avanti, chi vuole entrare? o lo stanno facendo apposta? No, si rompe subito per quella lì, un po' per chietto, dai, non so che funzione posso avere, forse qualcuno dice un po' per attenuare la possibilità che venga presa dai fulmini, ma ci credo poco, perché se entra il fulmine ti scioglie anche le mutande, oltre che la punta dell'antenna. Va bene, no, a parte, ma tecnologicamente non è, diciamo, a livello progetto di progettazione non è niente di complicato, una semplicissima antenna con una bobina, anzi due bobine, una cosa, niente di complicato, però le cose ben fatte, come certi tipi di motori, di macchine, di moto, eccetera, eccetera, funzionano, se funzionano bene non c'è bisogno di fare modifiche. Poi il discorso della manta l'hanno fatto prima la 1, poi per questioni commerciali hanno fatto la manta la 5, gli hanno aggiunto un radiale e poi per essere più fighi, perché c'era la moda del turbo, hanno fatto anche la turbo. Però ti posso dire, confrontate tutte insieme, una a fianco all'altra, nella stessa postazione, Mantova Turbo e Mantova 1 e Mantova 5, non c'è assolutamente nessuna differenza. Magari forse si dice che la Turbo ha leggermente un po' la larghezza di banda superiore, però sono tutte cose da verificare strumentalmente, non così fatte a naso. E la Turbo spinge di più, magari ha detto. Io conosco gente che ce l'aveva attaccata una all'altra e ha fatto le prove a lunga distanza, arrivava esattamente uguali. I disturbi li prendeva uno e li prendeva l'altro, per cui poi è uscita la Grazioli su una progettazione della cosa, della Mantova, gli ingegneri che hanno, ingegneri, non so se ingegnere, comunque i tecnici che hanno progettato la cosa, la Sigma, della Sigma si sono messi, hanno costruito la Grazioli, ma diciamo quando c'è un tubo d'acqua, più di quant'altro non puoi uscire di acqua, tu puoi fare girare contro giri, è sempre quello il discorso, devi avere guadagni superiori, devi mettere gli elementi direzionali, solo così riesci a avere, però tu gli dà un'altra cosa, per cui lasciamo perdere, una vale l'altra a quei livelli di antenne. Sì, la Grazioli poi, a parte la 5 ottavi, ha fatto quel mostro 5 ottavi più un quarto d'onda messa in fase, mi pare la lunghezza totale, mi sono stupito anch'io, credevo meno, a meno che non abbiamo un metro di tubo alla base, allora il sito indica lunghezza totale, la G-Max, no, 10,80 m, è un mostro, una specie di mostro, però lì pesante, poi non so se sia 6,5 kg, quasi 7 kg, forse anche di più, boh. Ma quella che conoscevo io della Grazioli, che c'era quell'elemento davanti, era alta 8,50 m l'antenna, ma pesa molto di più di 6 kg, la Mantova già di per sé secondo me pesa una decina di kg, per cui quella è un po' più grande, tu mi dirai l'alluminio magari è un po' più sottile, perché le vecchie Mantova, se tu guardi lo spessore dell'alluminio, è leggermente di qualche decimo superiore a quelle di secondo tipo, dai, me ne sono accorto più di una volta, però le voci della Grazioli abbiamo visto dalle prove funzionava. Poi avevano fatto una c'era la 7 ottavi, avevano fatto leggermente più grande rispetto alla 5 ottavi, ma hanno verificato, non da me, detto da degli esperti, prove comparative eccetera, l'antenna che rende meglio delle altre e come tipologia di configurazione la 5 ottavi, per poi l'hanno fatta ad onda intera, mezz'onda, un quarto d'onda, tre quarti d'onda, hanno fatto delle prove come equilibrio di antenna, come performance, nel senso magari va meglio da una parte e peggio dall'altra, però come equilibrio di antenna la 5 ottavi è l'antenna che va meglio di tutte. Scusa Robè, che era al telefono un attimino, cosa ti volevo chiedere, ma l'altro giorno cosa c'era, portante in bara mobile o non ne stavo capendo niente, che poi è passata sul 12 anche, una cosa del genere, vedevo questo segnale, o era di propagazione o era in bara mobile. No, era qualche simpatico che mi immagino che sia, io diciamo, ti ripeto, trattando pochissimo qua, ero tanto tempo, infatti ho salutato a te, Gavino e compagnia cantante, c'era qualcuno simpatico, metteva la portante, ma non dava fastidio a nessuno, probabilmente, mi immagino chi sia, però pensavo che fossero finiti questi tempi, invece purtroppo i simpatici esistono ancora. Ero io, cazzo, perché volevo che mi invitassi la birra. Mia Antonello, la segnale ha sfasciato tutto, tu facci piano col segnale. Ho messo l'antenna ieri, la verità, nuova, perché l'altra mi si è incendiata, ha preso il fulmine in pieno, quindi a un certo punto l'ho messa nuova ieri notte. C'è anche Marco, Antonello. Mi hanno detto che è successo qualcosa col fulmine, non lo so, ho visto passando non mi ricordo con chi ero, con Claudio, con qualcuno, mi ha detto, mi gli ha crepato l'antenna. Antonello, che tu più o meno so dove abiti, non ti conosco di faccia, però so più o meno dove abiti, per cui l'antenna l'avevo vista. Ma l'hai messa nuova? Sì, sì, ho messo le 5 ottavi. Ho messo, a quella volta la mantova, o saranno, lascia perdere, meglio niente. E che antenna hai messo? Ho messo la, come si chiama? Poi nei 5 ottavi ho messo dell'assidio e a posto, c'è la gabbia antistatica e quindi a un certo punto va bene. Però stai uscendo tutta la pernacchia mia, Antonio, o sei troppo saturo, perché o forse siamo troppo vicini, perché qua sta arrivando 9 più 60 a fondo scala, probabilmente ne stai saturo per quello che ti sento troppo forte. Aspetta, sono neanche a 40 watt. Ecco, 10 watt, vabbè. Fai parlare. 1, 2, 3, microfono normale naturalmente, non microfono amplificato delle 140. Sta arrivando uguale 960, comunque attenuato va molto meglio, comunque troppo forte il segnale, magari leggermente la radio mia va un po' in saturazione. C'è anche Marco, vediamo a Marco, avanti Marco. Sì, Antonello mi stava spiegando, io non so dove fosse lui nel momento del fulmine, ma quanto ho capito era di quelli, come si chiamano, globulari, quelli che vanno un po' orizzontali. Lui mi ha parlato di che il fulmine è come se avesse avuto origine da ossi, così mi ha detto lui, è come che avesse beccato un braccio secondario del fulmine, secondo me, perché sennò gli avrebbe sciolto anche il palo, cioè ha beccato qualche ramo secondario, magari non diretto proprio, non il braccio grosso del fulmine, mi robe, però è un'opinione mia, riprendi robe. Anche io, secondo me è successo così, perché se ti becca il fulmine ti disintegra tutto quello che c'è intorno, nel raggio di 50 metri, probabilmente è andato percorso per caricare elettrostatica, diciamo, si è propagato nel terreno, se no se entra nell'antenna, Fabrizio l'ha beccata in pieno, ma gli ha preso fuoco la casa, esplosi gli apparati, c'ho il microfono su, tu vedi come si è fatto, l'MC60 è esploso, non è dire è arrivato a correre, è proprio esploso, fisicamente quando tu metti un petardo dentro, la stessa cosa, ha bruciato tutto il parquet della casa, le radio, tutto il danno che gli ha fatto, che non ne avete idea, l'antenna, la verticale non l'ha più trovata, nel senso, non sa, deve essere incenerita, non ha trovato nessuna parte dell'antenna. Immagina se fosse stato seduto alla postazione, immagina, meno male che non era presente, non è seduto lì. Antonio, quindi dicevi del fulmine, ma tu eri dentro casa, eri fuori casa, come era successo? Me l'avevi spiegato, ma non era chiaro. Te lo spiego allora, in pratica il tuono è incominciato da lontano, hai capito? Dopodiché ho sentito in pratica nel PL, dopodiché cazzo, in pratica mi ha incendiato, cazzo, il primo televisore e poi anche il secondo, non solo l'altro. In pratica è stato un fulmine orizzontale, hai capito? E si è fatto la bellezza di, penso che sia 15-20 km o una cosa del genere, perché il tuono è rimasto là. Se fosse stato il tuono e il fulmine a casa, a me mi avrebbe disintegrato come minimo, questo è poco ma sicuro. Dopodiché è partito, cazzo, il termico, cazzo, di casa mia, poi quello di casa di fianco a casa mia, quindi figurati tu, quindi in pratica è passato orizzontale, si è fatto tutto il percorso, si è fatto, anche l'altra volta l'ho visto una cosa del genere, la verità, ha chiamato meglio me, sta arrivando, è passato sopra, come si chiama, è scaricato al conti. Ma tu di lì il problema, Antonio, tu c'hai anche quella postazione, con la centrale elettrica, di lì possibilmente magari ha scaricato sulla gabbia di Faraday, diciamo, su tutto il circuito di antifulmine, e poi magari si è propagato in terra e è andata a finire la partita. Magari è stato così. No, secondo me invece è stato totalmente il contrario. Cioè, in pratica prima ha scaricato nel palazzo mio, nel palazzo che c'avevo a fianco, dopodiché in orizzontale nel palazzo mio, dopodiché in pratica ha preso come si dice, le Raffancura, non mi viene in mente il nome, Raffancura, porca miseria, cazzo, comunque sia, giù c'era la cabina, ha preso in pieno la cabina, ha preso, dopo la cabina in pratica si è fermato in pratica, perché a me mi ha incendiato, come si chiama, solo a me, mi hai capito, solo a me, gli altri non ha fatto niente. Il termico. Boh, sei stato sfortunato allora. Io faccio l'ultimo passaggio, passo a Marco che poi vado a mangiare. Dai. Vai Marco. Ehi, sì, anche perché ho visto che sono le 8:30 più o meno. Così mi organizzo anche per la cena. Sì, io ho visto, guarda, robe, foto peggiori su internet, poi non le ho più trovate, non ho più trovato il sito, ma ho visto fulmini che hanno beccato in pieno un impianto elettrico tipo di villette, e c'erano i muri, tu immagina, no, il cavo magari elettrico che passa in verticale, no? Che va poi alla presa elettrica in basso, i muri scoppiati, c'è, come è sceso lungo il cavo, i muri spaccati, è una fessura di 10-20 centimetri, proprio arrivato di, come quando spaccano due gli alberi secolari, segue i fulmini grossi, che proprio te li tagliano in due, una cosa impressionante, impressionante, infatti li temo oltremodo. Vabbè, si spera, non, per gli impiantanti l'ho detto, non mi è mai capitato in 30 anni e poteva anche non capitare mai, Antonè, e lì sei molto in alto, però magari sei più esposto, non hai palazzine più alte, come si dice, autoprotetto, vabbè, quando c'hai strutture più alte dove magari può finire lì piuttosto che da te. Sì, sicuramente se c'è un palazzo più alto, il primo che becca è il punto più alto, sicuramente, però tutto è possibile, dai. Ok, signori, dalla Costa di Palmadola, come diceva qualcuno, vi saluto. Ciao Marco, ciao Antonella, chiunque fosse all'ascolto. Io devo chiudere, adesso vado a mangiare la pappa. Ciao, ciao, siete tra tutti. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Secondo me è 5G, comunque sia. A un certo punto, speriamo, se prende a fuoco il 5G, uno di questi giorni scende al fulmine lì nei ripetitori che aveva pensato da poco il 5G, che prendono fuoco, così almeno sono tranquillo. Almeno la smettono non per i coglioni, più che altro, per i telefonini. Ehi, ciao Roberto, buona cena, buon tutto e ci sentiamo. Vabbè, 5G, poi ci sarà il 6G, il 7G, Antonè, ogni tecnologia cosa ce la prendiamo con quella, poi chi lo sa, frequenze sempre più alte, benissimo non fanno, anche il wifi magari dicono che sarebbe meglio non averlo a fianco al letto, per dire, il modem wifi, ma un tantino distante, più distante è meglio, ma non sono radiazioni ionizzanti quelle, sono... Sì, frequenza alta, ma non è niente di che. Però appunto anche per i cellulari, no? Chi sta molto al telefono, che ce l'ha sempre all'orecchio, non dico dopo un anno, non dico dopo 10 anni, ma dopo una vita, poi vabbè, gli studi si contraddicono, se non sono foraggiati anche da gente controcorrente, non si sa. Insomma, fa tutto male, ecco, tutto fa male oggi, tutto è contaminato, il cibo fa male, l'aria fa male, tutto. lettere piene di veleni, come ha detto, guarda, questa frase l'hanno detta in un film del 95. Antonè, un film del 95, Ragione in Mnemonic, dove anche lì, che ne so, si era sviluppata una malattia quasi epidemica neurologica e non capivano da cosa arrivasse. E questa roba arrivava praticamente dalla tecnologia, da tutta la roba che c'era in aria a livello di segnali radio, microonde, come può essere i cellulari adesso, i wifi, quella roba lì. E la frase che ha detto, dice, il tipo era appunto che l'etere è pieno di veleni, però la tecnologia ce la teniamo stretta perché ci fa comodo, capito? Nonostante magari faccia male, ci fa comodo e ce la teniamo con i malanni poi che arrivano. Chiappa. E infatti è quello, il discorso è quello lì. Ma comunque sia, adesso vediamo un po'. Adesso voglio in pratica contare, cioè contare, non è contare, col test vediamo un po' quanti bossi ci sono a un certo punto, e se no, cazzo, sai cosa faccio? Prendo e mi metto un laser, cazzo. E siamo a posto. Come il laser, cazzo, tutti i giorni. Tu vedrai, cazzo, che quella cosa non funzionerà più, i 5G te lo dico io. Cosa vuoi fare? Il coso, il sabotatore, tipo quello che segava gli autovelox? O le paleoliche in Sardegna? Esatto, sì, ci sono quelle, ci sono i laser, ci sono dai cinesi, costano che poco, lo sai, sì, e hanno un bel po' di potenza, basta puntare direttamente lì, durante il 5G, quelle si incendiano a un certo punto, e quindi le cambiano ogni addì. Quindi a un certo punto se la prendono in culo, se la prendono. E vabbè, dai, il laser, cos'è? Spazio 1999? E che laser vuoi prendere? Non ci sono ancora laser, sì, roba militare, sarà americana, israeliana, adesso stanno studiando questi laser per buttare giù i missili, no, perché è istantaneo, cioè viaggia alla velocità della luce, quindi come punti un missile, sempre che sia curato il sistema, cioè nel momento in cui hai premuto il bottone l'hai già beccato. Non è un proiettile, non è lento come un proiettile, capito? Va bene, questa lavatrice sta facendo un casino, che palle, vabbè, già smette a breve. Antonio, cosa ti stavo dicendo? Mi era dispiaciuto per quel pacco, proprio mi era dispiaciuto quello, però io, Antonio, da dove ho sempre comprato la roba? Certo, l'ho pagata il giusto, non ho seguito questi prezzi, prezzi anche che non hanno senso, cioè come potevi davvero credere che a un prezzo così basso potevi trovare quel tipo di apparato? Io ho sempre preso Media Globe, Feleco Elettronica, oppure quello di La Spezia, poi ogni tanto da quel marpione lì di toscano che mi aveva bruciato pure la garanzia di un baracchino, poi da lì, dalla volta non ho più comprato niente. Però sempre comunque negozi fisici affidabili, riconosciuti, poi da AliExpress puoi comprare le fesserie, quelle da 20-30 euro, se non arriva pazienza. Anzi ti dirò, da AliExpress c'è stato un problema, è stato un vero problema, te lo spiego in breve. Allora, AliExpress spedivano con AliExpress Standard, che poi ti arriva con le poste, alla fine arriva sempre con le poste SDA, oppure con Kainao, che era un altro corriere che però funziona dalla Cina fino a fuori, poi basta, poi ti arriva sempre con le... Si sono affidati per un periodo a questo, aspetta, come si chiamava? Fulmine Group, ed è un'azienda siciliana. Mi stai seguendo? Certo che ti seguo, non ti preoccupare. Comunque sia, l'ha avuta in culo, capito? In pratica sembra a caso una scatola cinese, tale e quale. Allora, una ditta che in pratica fa vendere cose, l'altra fa le spedizioni, e dopodiché lo manda alla BRT. Siccome la BRT stasera ho trovato il corriere, perché lui beve qua, hai capito? A un certo punto dice, anche se se avrei merito, dice, se tu hai tagliato il cazzo, come si chiama, non avrei potuto, dice, tornare indietro, hai capito? Il discorso è quello. Scusa, come cazzo faccio? Se tu apri il pacco, in automatico, cazzo, non puoi più, cazzo, restituirlo, il discorso è quello. Hai capito cos'è il discorso? Adesso vediamo un po' la finanza domani. Perché vado lì, vediamo come cazzo facciamo. Se me la fanno, se non se la piglia in culo, vuol dire cazzo che ci ho buttato 129 euro, cazzo. Per un baracchino di cazzo. Hai capito? Però a un certo punto vedrai quello che gli faccio io. Gli faccio chiudere il sito, dalla finanza faccio chiudere su tutto. E ha finito di rompere le balle. Attorno a me cosa fai chiudere il sito? Quelli che hanno il sito in Cina o a Panama, peggio che mai, figurati se stanno pensando alla cosa, un po' la fregatura che hai avuto. E cosa ti volevo dire? Dico lo spedizioniere, questo Fulmine Group, questa ditta siciliana. Allora, avevano preso accordi con AliExpress, quindi alcuni pacchi avevano una sigla particolare, il numero di tracciamento, come arrivavano in Italia, arrivavano nelle grinfie, lo posso dire, grinfie di questa Fulmine Group. Beh, cosa succedeva? Che i pacchi venivano sistematicamente contrassegnati come consegnati, pacco poi non ne vedevi, loro dicevano consegnato e niente, se li tenevano, non si sa che fine facessero, poi false indicazioni anche sul sito, tipo tentativo di consegna, destinatario assente certe volte, però più delle volte mettevano direttamente consegnato e non sapevi a chi, a come. Quando telefonavi alla ditta c'erano persone molto maleducate, gente che non dovrebbe lavorare a contatto con le persone, che ti rispondevano in modo sbrigativo, seccate, o ti chiudevano il telefono in faccia, quindi gente che non dovrebbe lavorare, capito? E se tu guardi TripAdvisor, come si chiama quel sito, ci sono, mi pare, il 99%, se non di più, di recensioni negative di questa ditta siciliana. E la maggior parte delle inchiappettate le hanno date con i pacchi di AliExpress. E tu non potevi prevedere con quale tipo di corriere sarebbe arrivata in Italia. Perché con le poste è sempre arrivato, poste CDA. Una volta mi è capitato che ho scelto come spedizione la spedizione AliExpress standard, quindi ho detto arrivo alle poste, no, invece no, è finito nelle grinfie di questi signori e il pacco non si è mai più visto. Naturalmente se tu reclami a AliExpress loro si limitano a dire a noi abbiamo visto il tracciamento, a noi risulta consegnato. Sì, ma come fa a entrare in Italia alla dogana? Come c'è dalla dogana risulta consegnato, come arriva in mani loro? Ci vorrà un po' di tempo per arrivare dalla dogana alla porta di casa tua. E quindi hanno alienato una marea di pacchi. Questa cosa non so se si sia risolta. Spero di sì, perché quello non è modo di lavorare, quelli sono dei lestofanti, avevano preso appalti delle poste, bollette che non arrivavano, altre cose gravi, gravi, gravi. Non puoi affidarti a gente improvvisata così che poi praticamente ti hanno ragione loro, la colpa quasi è tua, no? Che abbiate il pacco e non lo so. E quindi altro, poi come hai detto tu, una specie di matrioska, questa storia qua, una scatola entrata, quelle strutture piramidali, capito? È comprato da un sito che poi ha dei venditori che poi spero si appoggiano ad altri, come si dice, dettaglianti, non mi viene il termine, già capito. Cioè non si capisce chi sia il vero venditore, il tramite, il sito, ma vi detto un indirizzo folle, mi sembrava Europa dell'Est, Est Europa. Quindi Antone, pazienza, tanto non faranno niente, si va alla finanza, lo segnano, vabbè, cosa possono fare loro? Questi hanno la sede in paradisi fiscali. Non li chiedo nel sito per 129 euro di pacco mancato, no, purtroppo. E poi io vorrei capire bene cosa è stato ordinato, avrei voluto essere presente e vedere cosa avevi ordinato, con che tipo di corriere, che tipo di assicurazioni c'erano, le condizioni di vendita anche, Antonè, le condizioni di vendita, tu non mi hai saputo dire molto. Qual è che sono saluto? E io, ciao, vado bene, ben entrato. Comunque sia, è così. Vabbè, per quello diciamo ci sono problemi, hai capito? A un certo punto, una volta che la finanza viene, dice, eccetera eccetera, dopodiché mi dice il sito eccetera eccetera, tac, interviene, penso che te venga eccetera eccetera, vedremo un pochettino, perché non è possibile, hai capito? Se no basta che mandare Gabibbo come ha fatto l'altra volta, che hai visto che con quel tipo che vendeva le case a 140.000 euro, a un certo punto, cazzo, secondo te, cazzo, non è sfruttato? Quindi a un certo punto sono sfruttati e sono costretti a restituire i soldi, hai capito? Il discorso è quello lì. Io ha speso 140.000 euro, chi ne ha speso 200.000, chi ne ha speso 150, eccetera eccetera, quindi a un certo punto tranquilla che tranquillo qualcosa riusciamo a cavare, almeno qualcosa penso che mi restituiscano di che altro, se no cazzo, sono morte, hai capito, li chiudono il sito e hanno finito, non posso più fare niente. Ciao Marino, io sto cercando di capire cosa dice Antonello, però io te l'ho detto Antone, se il sito, la Guardia Finanza non ha giurisdizione di chiudere siti messi chissà dove, magari in paradisi fiscali o in Cina, eccetera. Al limite possono bloccare l'accesso dall'Italia al sito, però lì trovano sempre il modo di fregare. Guarda, era successo a Gianni una cosa del genere, il doppio room, però lui gli era peggio ancora, gli era arrivato. Non mi ricordo cosa gli era arrivato, o la scatola vuota, o un mattone. Gli ha detto che queste sono delle organizzazioni criminali che cambiano sempre, cambiano ragione sociale, non li becchi più. Oppure è stato un clamoroso errore, perché lì non è che non ti hanno mandato niente, ti hanno mandato un prodotto sbagliato, come che avessero sbagliato il pacco col destinatario, capito? Poi anche il fatto che non sentano ragioni, non si capisce, poi bisogna sempre scrivere in inglese, Antonè, per risolvere queste cose. AliExpress devi scrivere in inglese, vabbè che ormai col traduttore già si traducono tutto, però non, non è così facile, anche su AliExpress qualche venditore ha detto per me va bene così, tipo il pacco è consegnato, te l'ho detto con questa ditta lì puoi fare richiesta di rivalsa ad AliExpress, che non è il venditore singolo, però li valutano, certe volte i soldi te li ridanno, anzi è già capitato che restituiscono piccole somme, adesso io non ho mai fatto ordini grossi, è un macello. Marino, avanti. Ok, ciao Marco, mi hai sentito, ciao anche Antonello. Solo per un saluto, Antonello, ti ricordo due cosette, pure che ho chiuso, che mi stavo già chiamando per la cena. Allora, mia figlia ha ricevuto delle scarpe che erano quelle che ci ha fatto la richiesta, ha chiamato, non ha anche risposto. E servizio la polizia postale, gli ho letto, lasci perdere, che sono siti fantasma. A me, a lei, ok, è una cosa. Io ho ordinato da un sito che mi ha detto un amico, un soffiettore con doppia batteria. Soffiettore con doppia batteria, soffia e aspira, insomma, 80 euro. Ok, tanti di me ho fatto richiesta in sabato sera, neanche 10 minuti mi hanno chiamato, hanno avuto tutti i dati, il pagamento, la consegna, così per caso neanche 4 giorni è arrivato il pacco, io non c'ero. Mia moglie non lo sapeva che avevo ordinato questo pacco, ha pagato e ha preso questo pacco qua, ma era un pacco, una scatola piccola, ma piccola, guarda, come una giangina, era come uno sciocapelli. Ho preso questo pacco, quando sono arrivato, c'era un aspirapolvere, sì, c'era un soffiatore, diciamo, per me era un aspirapolvere, era un soffiatore tipo quelli da piccolini, da bambini. Diciamo che lo sto usando adesso, intanto ho perso i soldi, pazienza. Ho fatto chiamata lo stesso al sito, e il sito è un fasullo. E mi risponde, consente, praticamente dico, a me ci hanno dato questi dati da vendere e non so neanche chi è il padrone, diciamo, e così via. E poco poi ci ho perso quei 80 euro. E la signora mi ha detto, rifaccio il pacco, me lo spedisco. Io il pacco non l'ho fatto. Se spedisco il pacco non c'ho né questa roba, non ho ricevuto né niente. Ormai sono siti, fasulli, viene stati con dove ordiniamo la roba, non c'è nulla da fare. Sono siti di fantasma, non c'è nulla da fare. Ok, detto questo io chiudo, andrei 9.15 il tuo segnale, la radio 5, 9.10 Marco. Antonio riprende, io chiudo e mi stanno chiamando poc'anzi. Avanti Antonio. E infatti quello stavo pensando anch'io, la verità, comunque. A un certo punto. Guarda, l'unica cosa, sai cos'è? Io stasera ho visto il corriere che trasporta di quella roba lì di loro, quindi a un certo punto sai cosa sarebbe bello, cazzo, bloccare a lui e portargli via tutto quello che c'è lì dentro, cazzo, almeno cazzo vedrai come pagano, cazzo, immediatamente, cazzo, e potremmo incassare i soldi. Sarebbe stato veramente bello, sarebbe stato. Lo so, ma sai cos'è? Il corriere tu il pacco non lo puoi aprire, perché io, se ce l'ho io, pacco non l'ho neanche ritirato, perché ho visto la grandezza, questo è Romania, e non ti do neanche su, spedisci indietro. Ma io non c'ero, mia moglie non sapeva nulla, ha preso, ha tirato, ha pagato, abbiamo preso la fregatura abbiamo presa e ciccia, pazienza, mi tengo quello che ho ricevuto, lo dico, spedisci indietro, ma non la spedisci indietro. Se ti vanno indietro questo, non dicevo, non prendo più nulla, mi frega un'altra volta. Il corriere non ti apre il pacco, perché se ti apre il pacco, il corriere, gli odio mi trovano lui, è già successo. Io conosco gente del Corriere che hanno preso il pacco, facevano una cortesia al cliente e gli hanno addebitato al Corriere, capito? Dunque il Corriere tira il pacco, se lo vuoi ritirare sì, se no lo manda indietro, capito Antonio? Ok Marco, riprendi per me quel ritiro, dai. Aspetta, lo so anch'io quello, mi ha dato, siccome frequenta qua il Corriere, mi ha detto, dice, io purtroppo, tu hai aperto il pacco, mi ha detto, se non avessi aperto il pacco, dice, immediatamente dice, ti sarei mandato indietro, mi ha detto, hai capito? Invece se apri il pacco, sei fregato, mi dico se quello lì, fanculo a me, in pratica, capito? Penso la prossima volta quando arrivano i pacchi, che li ordino, prendo il peso a un certo punto, se non è il pacco idoneo, prendo e lo spedisco nuovo indietro e se la posso prendere in culo e me lo cambiano, hai capito? Sono costretti a cambiarlo. Esatto, siccome tu l'hai aperto e purtroppo è così, anch'io c'avevo un discorso con un corriere, con un amico, credo mi ha detto, io mi ho pagato quasi 200 euro di rimborso del codice più, mi ho tolto, perché facevo una cortesia a un cliente, ho aperto il pacco, il cliente non ha più voluto, l'abbiamo spedito e l'azienda ha voluto solo indietro, capito? E se ha pagato di tasca, il corriere ti danno il pacco, se la voltiamo ti, se no lo torno indietro, non interessa nulla, capito? Tutto qua, la fregatura è quella. Beh, certo, se ce l'ho io il pacco mio non l'avevo tirato, perché guardando la grandezza non l'avevo tirato, e siccome io non c'ero, mia moglie non sapeva nulla, l'ha ritirato, ha pagato e abbiamo preso la fregatura. E pazienza, vabbè, lo uso come un giocattolo, già funziona, sì, c'ha una batteria e un giocattolino. È un giocattolino, uso una batteria, il fatto che la batteria è di 48 volt, va a controllare col test e non arriva neanche ai 19 volt, figurati quanto sono furbi questa gente qua. Ok Marco, riprendi, saluto gli ascoltatori e io chiudo, quello ti permette. Cappa Marino, ahia. Sì, stavo leggendo qualcosa di marketplace, truffe, cose, tutto un po'. Tra l'altro Antonio, se uno vuole le cose le paga, va dai rivenditori specializzati in quella truffa, ma anche a me non mi viene la favella oggi. Rivenditori specializzati per un certo prodotto e li paghi il giusto, più o meno, certi sono più cari, vabbè, ma non che ordini una cosa dall'altra parte del mondo, non sai da dove arriva, chi la manda, la ragione sociale, senza contare, Antonio, che anche si possono clonare siti legali, ci sono casi che hanno clonato siti legalissimi, hanno fatto proprio il clone del sito, tu ero convinto di essere, che ne so, su Giardest o qualsiasi altra cosa, ed era un clone esatto, e una volta che paghi è così. Poi d'altronde non è che ti puoi rifare sul Corriere, Antonio, il Corriere trasporta solo all'interno del territorio italiano, ma lui non è responsabile per le cose che arrivano dall'altra parte del mondo, capito? D'altronde, finché non apri il pacco, non puoi sapere se c'è dentro l'oggetto che è ordinato o no, la radiografia sul momento non la puoi fare, prima di, non dico di firmare, perché non fanno nemmeno più firmare, capito? È un po' a sorpresa lì. E vabbè, pazienza, farlo come esperienza, peccato, certo, ma pensa che ti poteva andare peggio, anziché 129 euro potrebbe essere 300 euro, 400, 500, capito? E poi te l'ho detto, il tipo di apparato che tu hai detto a quel prezzo non esiste, mi puzzava già che uno dicesse anziché 300, 129, allora li regalano, li svendono, come può essere? Vabbè, oppure te l'ho detto che sia davvero un clamoroso errore che hanno sbagliato preparando i pacchi e te hanno spedito una cosa che dovevano spedire un altro. Vabbè, pazienza. E poi se la puoi scoppiare pure in culo a un certo punto, da parte mia. Ma a un certo punto già la pagano, non ti preoccupare. Intanto faccio un altro ordine, faccio questa foto, lo sento, me la faccio mandare a Centro Sud, come la faccio mandare, hai capito? Ti presento lì a un certo punto e prendo come si chiama il pacco e non ne pago nemmeno, adesso qua Didi, come si chiama, girami i coglioni a un certo punto. E capito? Così li faccio. Poi, che mi denuncino, dico. Tanto non sanno il mio nome e cognome, quindi a un certo punto siamo a posto, dico. Come hanno fatto loro, lo faccio anch'io. Così hanno preso 129 euro. Eh sì, sento storico. Lascia perdere queste cose fantasiose, che lasci un altro nome, un altro recapito, lascia perdere. Che se non vedono i soldi non spediscono. Ricordati, i truffatori, se non vedono i soldi in mano non spediscono niente. Cioè, o fanno finta di spedire, già hai capito. È così, Antonio, comunque vista l'ora, come ieri, ti ho detto, per me è già tardi, qua c'è fuori orario, devo cucinare per mamma più che altro, perché non tanto per me, io mangio anche più tardi se volendo, però lei mangia 9:30 e sono già le 9. Ci sentiamo un'ora migliore magari domani, pomeriggio, quello che è. Tanto domani credo che nel pomeriggio non debba uscire, vedremo, se no quando capita. Antonio, ci sentiamo. Non te l'ha fatto più quel difetto oggi, no? Oggi sei entrato e ha funzionato subito il coso, sì? Sì, sì, sto usando la antenna grande, hai capito? Quindi tutto a posto. Antonè, ma cos'è, TV accesa? Ho capito. Hai la TV accesa, hai qualche radio accesa vicino, no? Sì, c'ho la TV di casa accesa, la verità. No, perché io sento qualcosa su di te, però mi pare che non sia roba locale che hai tu in camera. Me l'ha fatto altre volte, praticamente sarà la lunghezza del cavo. Sento come un'immagine fantasma delle radio broadcast in AM, quelle radio sui, che ne so, 9 MHz, intorno a quelle parti basse, capito, a metà dell'HF, e certe volte me lo tira un po', l'audio me lo tira sulle modulazioni 27, forse fuisce la lunghezza del cavo, io ne ho 50 metri, magari entra in risonanza con qualche cosa strana. Appare e scompare l'audio, sente una voce femminile che parla, non ho capito bene in che lingua, non ho capito bene in che lingua. Quando c'è molta propagazione forse lo fa su certe frequenze, su cui sai è tardi, quindi le frequenze basse sono favorite. E già lo so che fatto. Aspetta, premi la porta antiamutto un attimo, un pochino. Allucinante, sembra o cinese o giapponese, forse più giapponese, lo sai, una donna che parla in lingua giapponese, appena appena la sento, e il segnale è tipico, variabile, tipico dell'oscillazione della propagazione. Beh, Antonè, detto ciò, ci sentiamo, saluto in casa e sentiamo un orario più consono, dai, che per me, te l'ho detto, adesso sono... faccio roba in cucina, ok? E non ti angustiare, i soldi vanno e vengono, i soldi sono fatti per essere buttati, capito? Beh, sono d'accordo. E capita, se vuoi, se riesci a recuperarle bene, se no mettici una croce su, però ricordati, quando vuoi roba vai sempre ai rivenditori ufficiali, conosciuti, AliExpress, GearBest, se sono specializzati poi in campo radiantistico, meglio ancora. E non mi fido manco dell'usato, non mi fiderei nemmeno di prendere la roba usata, perché a me è bastata l'esperienza di quel trasverter dei 40 metri, comprato da un noto forum. Sì, sì, perfetto, funzionante, tutto a posto, poi arrivi lì, arriva a casa, non trasmette, riceve ma non trasmette. Ma strano, qua funzionava, invece se vai a vedere il finale è pure cancellato, secondo me è anche non originale, eccetera. Insomma, alla fine va a finire che se la persona dice che qua funzionava, io pacco non è accetto indietro. Se glielo spedisci indietro, capace che ti ritorna, e quindi hai buttato anche le spese di spedizione. O peggio ancora, eppure era una persona conosciutissima sul forum, no? E vendeva un saccaccio di roba in questo forum, però lui dice qua funziona, non voglio sentire ragioni. Oh, è capitato anche a me una cosa del genere. Io quando ho venduto l'8009, lo Iesi 8009, così si chiamava, aspetta, quello che aveva 29, sì, aveva i 29,51, quante bande aveva? Non mi ricordo se 4, i 29,50, poi la V e la U, quello FM. O era 3 bande o era 4 bande, non me lo ricordo nemmeno più. Io era perfettissimo, l'abbiamo usato la sera prima per parlare in PMR, per dire. Tutto bello spento, eccetera. Sperisco. Pluribol, ho messo di tutto per il pacco, non per non rovinare nulla. Poi mi scrive di un genere per tipo, però il volume, non so, il potenziometro, il volume della parte o destra o sinistra non funziona. Io ho detto, ascolta, io ho collaudato tutto, qua andava benissimo, l'ho controllato minuziosamente per non avere problemi. Lui può pensare che il dolo sia mio, no? Può pensare che il dolo sia mio, però io l'ho venduto a causa di inutilizzo quell'apparato lì. Se no me lo sarei anche tenuto, però erano soldi fermi, Antonio, soldi fermi. Sono acquisti che non avrei dovuto fare, perché non essendo radiatore, sì, il gusto di provarlo 2 giorni e poi finito nell'armadio, come le altre cose. E, capito, quindi lui può pensare che il dolo sia mio, e io invece ho pensato che questo, pur di riavere, che ne so, parte del denaro speso, non ci avesse tentato, dicendo che qualcosina di non troppo impegnativo non funzionavano. Infatti guarda, spedire una seccatura. Te l'ho detto, sto trasverte, funzionava bene, era un electronic system, della electronic system. Riceveva bene i 40 metri, poi credo, non so se ha lavorato a te o a Cosa di Orsi, come si chiama? Antonello di Orsi, perché io per ascoltare avevo il Texun prima e quel XH Data dopo, capito? Poi avevo anche il K all'epoca, quindi no, vale, l'avevo già dato, il Cambridge l'avevo già dato, per fortuna, me ne sono liberato. E quindi usato non se ne compra più, per quanto il venditore sia un privato ma affidabile, non compro più niente usato, perché lì era palese la cosa, capito? È proprio emissione zero, è 000. E poi non c'era l'interesse nemmeno da parte sua a riaverlo né niente. Come la formula che dice lui, visto e piaciuto, capito, lui ti assicura che funziona, visto è piaciuto, una volta che ti arriva non funziona una cosa e pazienza. Va bene, ho pagato poco, era una miseria, quindi non è che mi posso lamentare più di tanto. Beh, Antone, dai, saluti in casa, ci sentiamo a un orario più recente, ok? Buonanotte e buon tutto. Antone, tu sei tutto distorto, sei tutto buu. Attenzione, shock. No. Stai strappando, Antone, inoltre dai, non mi posso trattenere perché devo cucinare per mamma, che se no lei non mangia, capito? Ci sentiamo nel pomeriggio, se posso, ok? Comunque è tutto strappato ancora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sta migliorando, è molto forte, tant'è che ho dovuto abbassare un bel, è una radio spacca orecchie adesso, però adesso è capibile. Ah, ok, sono tranquillo, a un certo punto va bene, tranquillo, allora vai pure a mangiare, non c'è problema. A un certo punto sei al limite, però la modulazione, hai fatto un passaggio buono, ma sei al limite proprio, Antonè, non va abbassata ancora di più. Allora quello è te esecutivo, dai, io stacco, sentiamo Antonè, sentiamo, d'accordo, ok, ci sentiamo domani mattina, ok.